I'm Yuki Arashiro, Japanese from Bale and Victorious, and Benvenuto, Giro d'Italia. Geronimo, sorry. Benvenuto, Geronimo. Perfetto. And in Japanese? Yokoso, Geronimo ne. Amiche e amici del ciclismo, dei sindaci, degli uffici pubblici, oasi di serenità, benvenuti a una nuova puntata di Geronimo che va in onda dalla sala riunioni, esattamente che sala è, Michele, che l'hai scovata tu? Sala riunioni del comune di Tortona, molto bella. Molto bella, sì. Quando Michele Pelacci parla, qualsiasi cosa è molto bella, la voce di Michele Pelacci l'avete sentita, la voce di Leonardo Piccione state per sentirla, emozionatevi. Yoko so, Geronimo ne. Buonasera, ciao. Buonasera Leonardo, buonasera Yukiya Arashiro, ex maglia nera ma che oggi ha disputato la tappa portando la maglia nera, almeno metaforicamente, nei nostri e portando cuori, come sempre la maglia rosa dei nostri cuori. Questo è Geronimo, è il podcast di Al Vento dedicato al Giro d'Italia 2023, le voci le avete sentite sono quelle di Bidon, i nostri compagni di viaggio sono come sempre Shimano. Siamo a Tortona, l'abbiamo detto? Tortona è arrivata alla tappa, poco distante da qua, anzi forse se fossimo venuti qua potevamo vederla dalla finestra, sporgendoci molto, non lo so, non eravamo qua, io ero disperso in mezzo alla folla all'arrivo, voi non so dove eravate, Michele Pelacci, dici qualcosa di più. Scusa, un ufficio comunale da cui si vede il finale di tappa, un bello ufficio comunale, ma non indaghiamo oltre su questo luogo e... No, se vuoi facciamo uno speciale sulla sala riunioni del comune di Tortona, eh. Sì, ci vorrebbe. Io invece ero oltre la linea d'arrivo e non, per alcuni minuti non ho capito chi avesse vinto, perché sia Ackermann sia Jonathan Milan stavano festeggiando poco distanti l'uno dall'altro. Poi è stato detto a Milan che il vincitore era Ackermann e Milan ha detto no, è impossibile, e invece era possibile. E Pascal Ackermann poi ha confermato, io ci ha detto, sapevo di aver vinto fin dall'inizio, e aveva ragione perché ha vinto lui. Questa volata di Tortona, tappa... che ci lascia in eredità anche delle pessime notizie, perché non è più parte del Giro d'Italia Theo Gegenhardt, uno dei grandi favoriti, lo saprete, è caduto, si è fatto male, probabilmente in modo serio. Non lo sappiamo ancora nel momento in cui registriamo quale sia l'entità del suo infortunio, però sembra... Dicevano frattura o del femore o del bacino, però adesso quando ascolterete questo podcast lo saprete meglio di noi. Sì, sì. Leo, sfogati in questo podcast, sei visibilmente affranto? No, è una giornata difficile, credo, non solo per me, perché un altro grande favorito del Giro viene a mancare dalla competizione, e non uno a caso, uno di quelli che stavano meglio, un corridore... che ci piace per tanti motivi, che ci piace per quello, per come corre, ma anche per quello che pensa, per quello che dice, e uno dei corridori che diciamo essere uno di noi. Tutti i corridori sono un po' uno di noi, hanno qualcosa di noi, però in alcuni di essi... probabilmente niente, cioè, se avessero qualcosa di noi andrebbero molto peggio in bicicletta. Quello è sicuro, però sai, hanno delle caratteristiche del loro modo di essere, sono umani, alla fine sono ragazzi. Con alcuni di essi è più facile identificarsi, e Theo Gegenhardt è uno dei corridori con cui risulta più semplice, perché lo senti vicino, lo senti prossimo, come dire, raggiungibile, come lui stesso ama dire. Io ho una proposta, ma possiamo tornare, esiste un modo per tornare alle 17:14 del 14 maggio scorso, cioè alla fine del cronometro di Cesena, quando tutto sembrava perfetto, erano tutti ancora in gara. Sembrava che ci fosse un giorno di riposo all'orizzonte. C'era un giorno di riposo all'orizzonte, non era caduto nessuno dei favoriti, il Covid c'era, ma comunque non era ancora così invadente, e invece adesso il Giro è segnato da questa... Sembra lo Squid Game, avete visto Squid Game? No. La serie TV coreana. Bellissima serie. Bellissimo, sì, per Michele, bene, ovviamente, come bellissimo. Figuratevi se arriverà mai una stroncatura da Michele Pelacci, non credo, ma comunque. Comunque, non lo so, non credo che possiamo. Se si potesse tornare indietro nel tempo, probabilmente non saremmo qui, almeno io. Per gli abbonati a Geronimo Plus, stroncherò cose, fateci sapere. Va bene, ti faranno sapere adesso, visto che abbiamo parlato delle cadute, prima ancora della cronaca di tappa, facciamo questo bollettino che ormai è diventato la regola di questo Giro d'Italia. Purtroppo i corridori non sono partiti oggi: Cattaneo, Cerni, Hirt, Vervaeke, quattro compagni di squadra della Quickstep, più Vendrame, Caicedo, Gandin, detto Ganden, e Tesfazion. E poi ci sono i corridori non sono arrivati, anzi non sono finiti: Geoghegan Hart e Rodriguez, Oscar Rodriguez, protagonisti delle due cadute, di cui parleremo brevemente, ma parleremo sì, anche di questo nel racconto di questa tappa che ora ci riassume con far suo, direi benissimo, Michele Pelacci. Sì, perché la fuga si forma dopo i primi 10 km e vanno via in 6. Sono Stojnic, Konychev, Champion, Maili, Rex e Sevilla. Il loro vantaggio arriva fino a circa 4 minuti, poi cala finché non restano solo Rex e Stojnic davanti. Ripresi anche questi ultimi, Charlie Quarterman prova una sparata da finisseur, ma sul traguardo di Tortona è volata di gruppo, la vince, come detto, un po' sorpresa, Pascal Ackermann. Sì, Pascal Ackermann, che comunque sì, sono d'accordo, un po' a sorpresa, però dei segnali positivi in questo giro già li aveva abbondantemente dati. Mi dispiace che tu non abbia imparato il soprannome di Thomas Champion, ancora che è Champs. Oh. Quindi la prossima volta che andrà in fuga ti prego di chiamarlo Champs, oppure di cantare Sarà perché ti amo, che è la sua canzone preferita, come abbiamo imparato. O Champs-Élysées. Anche, volendo. Ma leggiamo l'ordine d'arrivo completo, nel senso i primi 10, come sempre. Pascal Ackermann su Jonathan Milan. Volevo dirti che se il giro va avanti così, un paio di puntate possiamo leggere l'ordine d'arrivo completo, probabilmente. Sì, c'è questa prospettiva. Comunque, Ackermann su Milan, terzo Mark Cavendish, quarto Mads Pedersen, quinto Stefan Oldani. A seguire albanese Mairofer, Ballerini, che adesso liberato dagli oneri di gregariato dopo il ritiro di Evenepoel. E dai compagni in generale, ormai. Sì, ormai sono rimasti in tre nella Quickstep. Al posto dell'autobus basterebbe il nostro camioncino, il nostro pulmino sarebbe più che sufficiente per la Soudal. Nono Simone Consonni e decimo Arne Marit o Marie. Non sono sicuro della pronuncia, se sia francese o meno. Lui è belga, però Marit. Arne fa pensare più, quindi diciamo Marit. Fiammingo, però bisognerebbe scoprire di dov'è. Non abbiamo controllato, perché noi spesso siamo impreparati su questa cosa, ad esempio lo siamo. La volata, raccontatemi voi un po' meglio com'è andata, perché io, come vi dicevo, per alcuni minuti non ho nemmeno non mi sono nemmeno reso conto di preciso di chi avesse vinto. Secondo me bisogna mettere in chiaro che anche oggi l'uomo più forte è sembrato essere Jonathan Milan. Anche De Gendt ha twittato: questo è così forte che mi sembra la potenza pura di Marcel Kittel. Però dalla curva a gomito è meno 500, esce molto indietro. Pedersen viene lasciato al vento, quasi è meno 300, quindi deve lanciare uno sprint lunghissimo. Alla sua ruota di Pedersen esce bene Cavendish in principio, ma dalla ruota di Cavendish un vecchio lupo di mare posizionato bene da Ryan Gibbons c'è. Ma il vecchio lupo di mare in questo contesto è Cavendish, cioè più vecchio di lui è difficile. No, hai ragione, però sembrava più bollito. Trova un'altra immagine. Sembrava più bollito di Cavendish, anche se più giovane, perché Ackermann ha solo 29 anni. Sì, ma appunto, il discorso è il mare. Era ruota, è il mare, non lo cioè, so. Cavendish è dell'isola di Man, più lupo di mare. Poi è vero che il lupo di mare che animale è, però questo è un argomento che affronteremo in altre trasmissioni, e che dedicheremo proprio solo a questo. Ackermann è di vicino Stoccarda, dove non mi pare ci sia il mare. No, comunque ti pare giusto. Ackermann esce dalla ruota di Cavendish e ha il guizzo vincente per resistere anche alla volata di Milan. Giusto, giusto. Milan che, se avesse il mare, sarebbe una piccola Bari, forse neanche piccola. Hai detto, cioè l'elemento chiave secondo me di questa volata sono due. Uno è Milan che si perde in quel finale. Penso, adesso non ho rivisto il replay, credo che lui sia fermato all'ultima curva a salutare degli amici e poi dopo abbia iniziato la volata, perché era veramente a una distanza siderale dagli altri. L'altro è Pedersen, perché l'azione di Pedersen permette, così da lontano, Pedersen diventa ultimo uomo un po' per tutti in questa volata. Lancia innanzitutto la volata dei due che vanno un po' di pari passo, Cavendish e Ackermann da una parte, e dall'altra, quando Milan rientra, si mette nella scia di Pedersen, non a ruota perché chiaramente è ancora lontano, però prende la scia di Pedersen e lo salta al lato opposto, per cui Pedersen al centro, errore che abbiamo già ribadito in altre occasioni, fa l'ultimo uomo un po' per tutti. È interessante vedere come si siano mossi Cavendish e Ackermann, come siano mossi diversamente nel finale, perché è come se Ackermann è quello che ha dato sicuramente il colpo di reni migliore dei tre. Questo forse, se stiamo scoprendo questo grande velocista Milan, questa è sicuramente una caratteristica che manca, ad esempio, ancora a Milan. Anche oggi abbiamo visto molto scomposto nel finale, non è riuscito quasi però a darlo il colpo di reni. Da lontanissimo la volata indubbiamente Milan, cioè... Cavendish è come se non lo desse quel colpo di reni, nonostante arrivi lì, e lì sarebbe interessante, insomma, capire cosa è scattato o non è scattato nella mente del velocista e chi ha la mente più da velocista di Cavendish in quel momento. Allora, io non lo so, a me sembra che siano scomparsi treni nelle volate, almeno in questo Giro d'Italia. Ma non forse so... c'era sciopero oggi. Oggi c'era sciopero. C'era quello rosa con scritto Giro d'Italia, quello c'era. È tutto il giro che mancano, ma anche gli ultimi uomini sono una figura un po' latitante in queste volate, al giro, ma in generale mi spingerei a dire in generale nel ciclismo. Ackermann ha vinto questo sprint con un uomo soltanto, che era Ryan Gibbons, ma poi non è stato nemmeno decisivo, se vogliamo, per la sua vittoria. Milan è arrivato secondo senza nemmeno un uomo. Mi chiedo cosa potrebbe fare, quanto potrebbe vincere Jonathan Milan se avesse a disposizione, ripeto, non dico un treno, ma anche solo uno o due compagni di squadra a sua disposizione, non so. Sì, sì, sicuramente ha bisogno di questo aiuto. Penso che la squadra stessa non si immaginasse un Milan già in grado di giocarsi costantemente le vittorie di tappa in volata. Va detto che sono tre corridori, questi tre, poi possiamo parlarne di altri, forse altri invece ce l'hanno il treno. La Trek, per dire, una sorta di treno ce l'ha, si è un po' scomposto quel treno, ma in un qualche modo ce l'ha. Milan e Ackermann sono compagni di uomini di classifica, per cui hanno squadre che sono sicuramente più votate al supporto degli uomini di classifica che ai velocisti. E Cavendish, insomma, sappiamo bene com'è stato il suo inverno, non è mai stato allestito il treno di Cavendish quest'anno, avendo raggiunto la squadra negli ultimissimi giorni del mercato. Anche perché, ripeto e concludo, non ci sono questi corridori Morkov o Richese o lo stesso Jacopo Guarnieri, sono tutti di una generazione o due generazioni fa. Non è una figura, ripeto, che forse comincia un po' a mancare, ma non lo so. Lasciamo questa riflessione in sospeso, in attesa che gli eventi si sviluppino in qualche modo. Cosa dire di Ackermann? Ritorna a una vittoria importante dopo tanto tempo. L'ultima del Giro era stata nel 2019, sì, che è anche la sua ultima e unica partecipazione precedentemente a questa al Giro. All'epoca sembrava essere il velocista più forte al mondo, uno dei più forti al mondo, poi si è un po' perso per strada e oggi è tornato a vincere una gara importante. Era raggiante, l'abbiamo visto in conferenza stampa, davvero non ha smesso di sorridere nemmeno per un secondo, anche perché era qui all'arrivo la sua famiglia, che i suoi parenti sono tutti molto appassionati di ciclismo e uniscono le vacanze, poi maggio è un mese in cui i tedeschi in genere frequentano l'Italia, al ciclismo. Perché poi c'è il sole, c'è bel tempo. Poi con questo maggio che stiamo vivendo, così possono unire il ciclismo il pomeriggio e il buon cibo la sera. E lui ha detto: sono felice che loro fossero qui oggi, perché almeno ho potuto restituire in parte quello che loro hanno dato a me in questi ultimi anni difficili dal punto di vista sportivo. Ha solo 29 anni Pascal Ackermann e non vinceva una tappa in un Gran Tour dalla Vuelta 2020. L'unica altra volta però che è avvenuto al Giro ha vinto la maglia punti, e un tedesco, Filippo, non vinceva una tappa al Giro da Kemna sull'Etna. Beh, non è molto tempo fa. Quantità in... No. Però comunque sì, è una statistica, non ti si può dare torto. Non sorprendente, lo era comunque. Ma facciamo un piccolo passo indietro, due passi indietro. Prima della volata ci sono state due azioni, una che è durata molto, la fuga, e una che è durata un po' meno, ma non per questo... un filino meno. Ma non per questo meritevole di minori attenzioni, che è questo attacchino, questo allungo di Charlie Quarterman della Corratec ai meno tre. Ha provato questa azione da finisseur, come ha detto Michele prima nel riassunto della tappa. L'ho fermato dopo l'arrivo. Ha provato da buon quarterback, ha provato lo sneak, diciamo. Esatto, non gliel'ho fatto presente, ma gli ho chiesto comunque qualcosa subito dopo l'arrivo. Posso chiederti cosa hai cercato di fare questa bella azione negli ultimi 2-3 chilometri? Volevo... volevo le gambe, volevo provare, no, non sappiamo mai, anche con la curva solo un po' dopo. Se avevo fatto la curva davanti con la caduta, non so, era possibile, ma no. Ma sono contento, se mi piace provare così e i prossimi giorni ancora. Si dice finisseur nel ciclismo. Sì. È una figura che c'è sempre meno. Pensi di poterlo diventare tu, che possa diventare la tua caratteristica? Non so, non ho mai veramente provato, ma mi piace così. Soprattutto nelle gare di tappe. Ho sempre buone gambe dopo 3-4 giorni. Sì, posso provare, ma vediamo, è la prima volta che ho provato. Allora, alla prossima. Domani? Grazie mille. Grazie. Ciao. Credo fosse la prima intervista post-gara in assoluto rilasciata da Quarterman in italiano, quantomeno, perché non c'era nessun altro a fargli domande. E se l'è cavata bene, come suo solito, grazie al suo corso di italiano online, e ci ha detto che ci riproverà e gli piace questo tipo di attacco. Riproverà a fare delle interviste in italiano all'arrivo o riproverà l'attacco? Riproverà l'attacco, di conseguenza riproverà le interviste, perché noi ci saremo probabilmente. Prima dell'attacco, del tentativo di Quarterman, c'era stata la fuga, e l'ultimo a mollare ovviamente è stato Lawrence Rex, ovviamente. Il mio corridore preferito di questo giro insieme a Matteo Riccitello. Lawrence Rex, che è l'unico Lawrence, ci sono due Lawrence, Lawrence De Plus e Lawrence Woods. L'unico Lawrence al mondo, leggevo. Al mondo? Sì, sì, sì. Ok, dove era scritto? È sulla pietra, inciso sulla pietra del comune di Tortona. Ah. E dicevo, ovviamente l'ultimo a mollare, perché qualcuno ci ha fatto notare, Rex è un cagnaccio. Effettivamente lo è. Se avesse vinto sarebbe stato un tiranno. Sarebbe stato un tiranno, il tiranno Rex, vabbè. Ricordo che poi la declinazione completa di Rex è Rex Regis Regi Regem Regi Rex. Grazie Michele per a la letto, tua freschezza liceale. No, a letto. Ah, a letto, sì, anche sì, questo, sì, assolutamente. Ma visto che ero in zona, mi sono fermato anche a scambiare due battute con Lawrence Rex e le ascoltiamo. Lawrence, just one question. For many minutes you were looking back at the peloton coming back to you, but you kept going. What goes on in your mind when you decide to keep going despite the peloton just coming closer and closer? Because you were there for 10 kilometers or something like that. I wanted to prove that I'm stronger than the guys. It was a mental game for me to keep pushing and to see that the peloton don't come back so fast, so which shows me, for me, that I'm really good and really started good in the Giro. And you think you proved it? Yeah, of course. You're happy? Yes. Thank you very much. Congratulations. Thank you, merci. Allora, ho chiesto a Lawrence, per molti minuti si è andato avanti a insistere nonostante il gruppo dietro recuperasse. C'è stata per molti minuti questa inquadratura di Rex da solo e il gruppo dietro che pian piano recuperava. Gli ho chiesto cosa passava nella tua testa in quella situazione. E lui, masticando orsetti gommosi, ha risposto: volevo dimostrare che ero più forte degli altri. Era un gioco mentale, una sfida mentale con me stesso, continuare a spingere e vedere che il gruppo dietro non rientrava in fretta. E per me questo significa dimostrare che sono forte e che ho iniziato questo Giro d'Italia molto bene. E allora gli ho chiesto: e quindi pensi di averlo dimostrato? E lui ha detto: sì, certo. E sei felice? Sì. Grazie. E arrivederci non l'ha detto nessuno. Ma lo rivedremo. Lo rivedremo perché dopo la Rube che ha fatto, dopo questo giro consistente, siamo sempre più speranzosi nei confronti del nostro amico, perché ormai siamo amici, anche siamo amici suoi, di tutti. Lawrence Rex. E va bene, allora adesso, dopo aver esplorato un po' l'arrivo di questa tappa di Tortona, andiamo a vedere la nuova classifica generale. È cambiata anche oggi, e non perché ci sia stata bagarre tra gli uomini di classifica. La maglia rosa continua a essere Geraint Thomas, con 2 secondi di vantaggio su Primoz Roglic e 22 sul terzo in classifica, che diventa Joao Almeida. Quarto è Andreas Leknessund della DSM con 35 secondi di ritardo. Quinto Damiano Caruso a 1,28, a seguire Lennart Kemna, Eddie Dunbar, Timen Arensman, Laurens De Plus e Aurélien Paré-Peintre. È uscito di classifica generale anche Pavel Sivakov, oltre a Theo Gegenhardt, perché è caduto e ha atteso alcuni minuti di capire se Theo potesse risalire in bicicletta e poi ha concluso la gara da solo, abbastanza malconcio anche lui. Speriamo che almeno Sivakov possa continuare su alti livelli questo Giro d'Italia. Fatto sta che la Ineos conserva, nonostante tutto, la maglia rosa. Il disastro è stato almeno in parte evitato. Geraint Thomas è ancora in maglia rosa. Ci abbiamo parlato dopo la tappa in conferenza stampa e ha detto che fisicamente sta bene e mentalmente invece è stato uno shock anche per lui apprendere poi via radio del ritiro e del trasferimento in ospedale di Theo Gegenhardt, ovviamente. Sì, della caduta ne ha preso e come, perché è avvenuta dietro di lui. Lui è caduto anche lui. È caduto, cioè, è stata una caduta strano che Theo Gegenhardt abbia avuto delle conseguenze così gravi, perché è stata una caduta invece, no, assolutamente non strana, è stata una normalissima scivolata in discesa. Una curva a sinistra, strada che aveva ricominciato a inumidirsi perché era ripresa a piovere da poco, per cui probabilmente con poca aderenza. È partito per primo Covi, poi è scivolato Thomas, che è caduto su Covi, l'ha anche detto, mi sembra, in conferenza stampa di essere stato fortunato, sì, di cadere sul morbido, tra virgolette, e gli altri hanno tirato i freni e sono però proprio veramente solo scivolati. Non è stata una caduta nemmeno impressionante, è stata una caduta ordinaria, se mi permettete il termine, nel ciclismo in discesa, eppure con conseguenze ben poco ordinarie. Ha detto che è stato il peggior Grand Tour dei 18 che ha fatto in sua carriera Geraint Thomas per quanto riguarda il clima, il meteo. Oggi c'era weather-wise, ha detto. Per 220 km una pioggerellina che andava, veniva, rendeva l'asfalto viscido. È stata quella a essere, no? Molto peggio del diluvio di ieri, che invece ha causato, sì, anche ieri qualcuno è caduto, ma con meno conseguenze, per fortuna. E sono rimasti, ieri dicevamo 5 Ineos nei primi 11, ora sono già ridotti a 3. Però Thomas l'abbiamo visto abbastanza sereno in conferenza stampa. Gli ho chiesto: questo è il momento in cui vengono fuori i leader, no? Perché stasera a cena in hotel non sarà semplice, dopo quello che è successo, rifare squadra, riconcentrarsi e soprattutto ricostruire il morale. Gli ho chiesto: qual è la prima cosa che dirai ai tuoi compagni di squadra stasera? E lui ha detto: andiamoci a prendere un dessert tutti insieme. E questo è un buon segnale, secondo me. Vuol dire che lui, con la testa, ovviamente, cioè, questo è un ragazzo di 37 anni, ne ha viste di tutti i colori, ha tutti gli elementi caratteriali per poter continuare a essere adesso l'unico leader di questa squadra in maglia rosa e provare a vincere questo giro nonostante il problemone occorso oggi verso Tortona. È problemone, è una parola quanto mai adeguata. Abbiamo altro sul buon Gerasimo Tommaso o proseguiamo oltre? Non adesso, ma lo richiameremo in causa più avanti, lo scoprirete a breve. Anche perché in sala stampa si è presentato con una schiscetta. Stava mangiando. Cosa stava mangiando Geraint Thomas? Dobbiamo chiederglielo, Leonardo. Allora, io ho guardato, spero di sbagliarmi, perché mi sembrava un riso in bianco sul quale lui ha spruzzato una quantità di ketchup o qualcosa di... Sì, un estratto di pomodoro che non sembrava esattamente di qualità eccelsa, però va bene. Se lui gradiva quello in quel momento, ha tutto il diritto di scegliersi cosa mangiare dopo una giornata del genere. Ma che se mangiano in Galles? Vabbè, ma se piace a lui, che problema c'è? Ci va benissimo. Non mangiano quello che si mangiava, per esempio, al ristorante dove abbiamo cenato ieri sera nell'albergo. Non so se l'abbiamo apprezzato. Posso usare questo superlativo stavolta? Sì, buonissimo. Grazie. Ma avete notato come si chiamava il ristorante all'interno dell'albergo? No. Blanco. sì, è vero, si chiama Blanco. Ma è un riferimento a qualcosa? È un riferimento, secondo me, a qualcosa. Comincio a capire. E allora ascoltiamo. Le tappe del cuore. Riassunto delle puntate precedenti. A seguito degli eventi che ben conosciamo, Alberto, dopo aver ricevuto un misterioso pacco accompagnato da una misteriosa lettera dal perfido consigliere Blanco, si reca dall'ambigua donna Estupora, che con fare ambiguo sembra suggerirgli di rivolgersi al buon diacono Peppo De Santis. Le tappe del cuore, puntata 10.589. Salve, buon diacono Peppo. Alberto, che bello vederti. Perché giungi a me? Ho ricevuto un misterioso pacco accompagnato da una misteriosa lettera. Fammi indovinare, è stato il perfido consigliere Blanco. Esatto. Alberto, devi fare attenzione. Con gli anni diventa sempre più perfido. Ma cosa vuole da me, dal pacco e dalla lettera? Non si capisce. Il contenuto è indecifrabile, ma voci di corridoio dicono che sta tramando qualcosa e che la sua furia ha a che fare con il terribile incidente che ha coinvolto Marilusella. Marilusella? La mia Marilusella? Questo mi fa sentire come Adam Yates nella tappa del Colle delle Finestre del Giro del 2018, capisci? Mi fa sentire come Kruijswijk nella tappa del Colle dell'Agnello del Giro del 2016, capisci? Mi fa sentire come Tonkov nella tappa del Monte Campione del Giro del 1998, capisce? Questa ultima l'ho capita! Aiutami, ti prego, cosa devo fare? Devi rivolgerti alla maga Pruna! Saprà certamente fare luce su questa faccenda. Grazie, buon diacono Peppo De Santis, grazie. Ma ricorda, l'unico modo per non cadere in una trappola è cadere in una trappola. Lo terrò a mente. Addio, addio, buon diacono Peppo. Le tappe del cuore. Fine della 10.589 puntata. Fittisce. Si infittisce e sfocia nell'occulto, perché si va a cercare adesso la maga Bruna. Però inviato alla maga Bruna dal buon diacono. Incontro tra magia e religione in questa, come possiamo chiamarla? Ma non lo so, questa telenovela. Radio romanzo. Sono emozionatissimo, coinvoltissimo e preoccupatissimo. Tre superlativi, qui Pelacci sarà contento, perché comincio a vedere che siamo a metà Giro d'Italia e vorrei altre 100.000 puntate delle tappe del cuore. Ma io non so se ne voglio altre 100.000, anche perché potrebbe aggiornare i riferimenti ciclistici che lui propone ogni volta, perché questo giro purtroppo ce ne sta proponendo di come dire, metafore o similitudini, ma il nostro narratore Alberto continua. Alberto ha smesso di seguire il ciclismo. Peraltro tutti i suoi interlocutori hanno smesso dopo il 98, cioè comunque sì, Alberto esatto. È quello più aggiornato, per cui è difficile chiedergli di aggiornarsi. Magari ascolta, chissà se Alberto ascolta Geronimo, una domanda che non mi sono mai posto. Neanch'io, sinceramente. Però d'ora in poi me la porrò in ogni momento. Io credo di no. Ma hai citato il 1998 come limite della memoria dei nostri, memoria ciclistica dei nostri amici delle tappe del cuore. Stamattina Michele ha parlato con un corridore che è nato dopo, molto dopo il 1998, perché ha parlato con Edoardo Zambanini della Bahrain, che è un 2001, giusto? Sì, uno dei giovani più promettenti anche, giovani italiani che vanno forte in salita, l'abbiamo visto già arrivare terzo in una tappa alla Vuelta l'anno scorso, gli abbiamo parlato perché è il suo primo Giro d'Italia e quindi gli abbiamo chiesto un po' come va. Nome e cognome? Edoardo Zambanini. Del team? Caruso in sottofondo intanto? Sì, grande. Dimmi. No, semplicemente, con chi stai in camera? Con Santiago Buitrago, anche lui giovane come me, quindi ci troviamo bene. E coppia, come sta andando il tuo primo giro finora e quali sono i piani per adesso? Va bene, sicuramente stare il più vicino possibile alla squadra e aiutarli nei momenti cruciali, più importanti, e cercherò di stare accanto e dare il maggior sostegno possibile. Ci dici un po' che corridore sei? Perché magari al tuo primo giro tanti non ti hanno ancora scoperto. No, ho fatto la Vuelta l'anno scorso, quest'anno è il primo giro, sì, e grazie. E, sì, sono un corridore, diciamo, scalatore, con un attimo di spunto in volata, e così. Hai già in testa una tappa particolare, una tappa che hai segnato sul calendario? Io penso che tu ne abbia una. Ma sicuramente molto bella, a cui terrei a far bene, è quella del Bondone. Lì, quella del Trentino è una tappona, quindi bisognerà vedere la squadra cosa che mi dice di fare, stare vicino alla squadra e vedremo. Succederà sicuramente qualcosa di bello lì. Poi torniamo su questa, ma prima ti voglio chiedere, hai una tappa finora che ti è piaciuta molto e una che invece non hai sopportato e hai detto Madonna, fortuna che siamo alla fine? Boh, sono state tutte molto tirate le tappe, e una molto bella, adesso non saprei dirti. State andando. Sì, forse sì, meglio che ti lascio, ma ieri sono stati quasi multati, ci hanno rimproverato. Sì, perché? Presentazione. No, perché? Sì. Fatto ritardo Zamba ieri, Johnny? No. Allora, con Zampanini abbiamo parlato, ma chiariamo, non è arrivato in ritardo per colpa nostra, tutto bene, non è stato rapito, è sano, ecco, e riprenderà la corsa domani. Non sappiamo se forse ha ricevuto un misterioso pacco con una misteriosa lettera. Un ambiguo dono da qualche... Comunque, a proposito di ritardi, Leonardo, questo gancio così temporale... Sì, perfetto, direi, no? Più che a proposito di ritardi, il gancio è l'apparenza, perché Zampanini, se lo vedete voi tifosi del Giro a bordo strada, lo capite che è un ragazzino, è una faccia molto bambinesca, imberbe. Dimostra tipo 20 anni più di Riccitello. È vero, no, lo vedete che giovane. Però se incontrate questo corridore della DSM, che è il secondo intervistato di oggi, ed è Harm Van Uke, vi sembrerà un 35enne, e invece è un ragazzo del 1997, e stamattina ci abbiamo parlato non perché dimostra più anni di quelli che ha, ma perché è un belga, e questo giro non è, come dire, il più fortunato giro per i ciclisti belgi fino a questo momento, e soprattutto perché eravamo in un campo di calcio stamattina alla partenza, nel campo sportivo del Camaiore, e Van Uke abbiamo scuola scoperto, calcio Parma. Okay. Ha fatto notare il buon Pelacci. Esatto. Van Uke è uno di quei corridori belgi, guarda caso, che facevano i calciatori prima di diventare ciclisti. E quindi ci sembrava un po' un gancio interessante per poter parlare con lui questa mattina. E questa è la prima parte della chiacchierata con lui. Harm Van Uke, team DSM, 26-year-old. How are you today? Yeah, a bit tired of yesterday, but... should be hopefully an easy day. Your sporting hero is Geraint Thomas, you said. So now he's wearing the pink jersey. Are you happy for him? Did you manage to talk also to him during this Giro? No, I didn't talk. It's been already a hard Giro, so not a lot of talks going on. But yeah, just someone who I looked up to when I was younger also. When he won the Tour de France, and also his style of racing. He has not a really boring style, so that's maybe why I'm looking up to him. E allora, come stai? La prima domanda. E Harm ha risposto: sono stanco dopo la tappa di ieri, ma oggi dovrebbe essere un giorno facile, speriamo almeno che lo sia. E poi gli ho detto: ho scoperto che il tuo eroe sportivo in assoluto è Geraint Thomas, e adesso lui è in maglia rosa. Sei felice per lui? Ci hai parlato finora in questo giro? E Van Uke ha risposto: no, non ci ho parlato, è stato un giro talmente duro finora che non è che ci sia stato molto tempo per le chiacchierate fino ad ora. Però lui era un riferimento per me quando io ero più giovane, lui vinceva il Tour de France, e poi mi piace il suo stile, che è uno stile che non è mai noioso, ha detto Harm Van Uke, e questo è il motivo per cui io lo ammiro. A questo punto gli ho chiesto del calcio, perché questo suo hidden talent, come lo definisce il sito della DSM, la sua squadra, è il pallone, il giocare a calcio. Eravamo su un campo, gli ho chiesto un po' come andava, come è stata questa sua storia da calciatore. Pensavo di far due tiri. No, Pino oggi ho visto, tipo Pino era Pino, lì a Pino a se tirare, la palleggiava, sì. Sì, a palleggiare. Ci provava almeno. Yeah, I used to play football for a long time, but just in a small team. Maybe I could go to some better teams in the future, but then I started to feel like it's a bit boring for me, and I started to choose cycling then. So I think it was it's good like this now. So you went straight from football to cycling. At what age this happened? I think 14, 15. Then I started, doing races when I was 15 or 16. Okay, what was your position in football? Midfield. Midfield. Okay. A lot of running. Yeah, a lot of running, and yeah. You still run now, but in a different way. Yeah, yeah. E Manuka dice: sì, ho giocato a calcio a lungo in una piccola squadra e forse sarei anche potuto andare in una squadra migliore se fossi andato avanti col calcio, però a un certo punto il calcio per me è diventato noioso e sono passato al ciclismo e penso che sia stata una buona scelta. E gli ho chiesto a che età sei passato dal calcio al ciclismo. Lui ha detto tra i 14 e i 15 anni e poi le prime gare le ho disputate tra i 15 e i 16. In che ruolo giocavi? Lui dice centrocampista. Correvo tanto, e io gli ho detto con una battuta abbastanza rivedibile, in realtà corri tanto anche adesso, però in un altro modo. Lui ha riso, il che mi ha confortato. E... No, mi chiedevo in realtà che tutti gli ex calciatori che diventano ciclisti erano centrocampisti. Centrocampisti di quantità, mi viene da dire, perché anche Venepool era un centrocampista che correva molto. Evidentemente c'è un legame tra queste due cose, no? Essere un centrocampista che corre e poi diventare ciclista, avere fiato, ha senso. Ho in mente un paio di centrocampisti che potrebbero darsi al ciclismo. Ah, per esempio? E questo è sempre per gli abbonati a Geronimo Plus. Vabbè, però tu lanci la pietra e nascondi la mano. Io, se vuoi, ho in mente qualche centinaio di giocatori del Genoa degli ultimi anni che potrebbero darsi ad altri sport. Vabbè, glielo ho augurato anche spesso. Is it true also that Italy is your favorite country? What do you like about this country? Yeah, just tifosi here. Just nice to ride here as in a race. Also, my best results in races in the under 23 were always in Italy, in Aosta, also the Giro di Lombardia for the under 23. So I have good memories in this country, but they have too much climbs here. Do you know Italian words? Yeah, some, but not the good ones. Not good ones, okay. The ones that are used in the peloton, so a lot of swearing. If you could choose a race in Italy that you would dream to win at some point, what would be? Yeah, to win, of course, the Giro, I think, but... The whole Giro or a stage? Yeah, a stage, and if I dream big, then the whole Giro, but that's... Okay. That's a big dream. Yeah, it's a dream, but nothing more, I think. Good luck, thank you very much. Start with the stage. Let's start with the stage, that's a good idea. Thank you, grazie mille. Thanks. E nell'ultima parte della chiacchierata con Harm Vanuka gli ho chiesto riguardo l'Italia, perché lui ha detto che l'Italia è il suo paese preferito al mondo. Gli ho chiesto perché. L'Italia è il paese che amo? Non con queste parole, letteralmente. Ma il concetto era quello. E lui ha detto per via dei tifosi e perché è bello correre qui. E poi anche perché i miei migliori risultati da Under 23 sono stati in Italia. Considerando che lui da professionista ha zero vittorie, quindi le memorie contano, almeno per il momento. E infatti ha detto ho buone memorie in Italia, però ci sono troppe salite. E qui si è fatto una piccola risata. Gli ho chiesto se conosce parole in italiano. E lui ha detto qualcuna, però non belle parole. Sono parole che si usano in gruppo e quindi tendenzialmente imprecazioni. Se potessi scegliere una corsa in Italia da vincere, gli ho chiesto, e lui ha detto il Giro, ovviamente. Al che gli ho chiesto, ma proprio il Giro tutto intero o una tappa del Giro? E lui ha detto una tappa, però se voglio sognare in grande direi proprio il Giro tutto intero. E io gli ho detto, beh, è un grande sogno. E lui ha detto, sì, è un sogno, per ora nulla più di un sogno, intanto cominciamo con una tappa. E allora gli ho detto sì, è vero, una tappa è una buona idea per cominciare. Anche perché lui poi mi raccontava fuori dall'intervista che adesso è libero, non deve più scortare l'Eknesund, perché l'Eknesund non ha più la maglia rosa e a quanto pare non punta ha un piazzamento in classifica generale perché i suoi compagni adesso, come Vanuke, sono liberi di andare in fuga e cercare un risultato individuale. Che forse è una cosa anche un po' sorprendente, visto come si sta mettendo nei primi posti la classifica generale con questa moria di leader, Leknessun magari potrebbe pensare a un piazzamento, però evidentemente... Può sognare. Può sognare anche lui. D'altronde sognare è gratis, come ci insegna Gonçalo Moreira. Gonçalo Moreira, dal Portogallo. E dal campo sportivo di Camaiore, dove abbiamo fatto questi incontri, poi ci siamo messi in viaggio, abbiamo affrontato una lunga giornata in furgone anche oggi, seguendo essenzialmente la linea Sestri Voltaggio. Che famosa linea Sestri Voltaggio. Famosa la linea Sestri Voltaggio è la sutura tra le Alpi e gli Appennini, non è proprio l'ultimo lineamento tettonico arrivato qua, per cui insomma abbastanza interessante anche da questo punto di vista. Siamo passati da Sestri, no, perché abbiamo mancato l'uscita, da Voltaggio ci siamo passati, ma prima abbiamo fatto altri incontri, insomma vi facciamo sentire, come ormai vi sarete abituati, ciò che ci è successo nel corso della giornata. Orsù Marta, fermiamoci tosto. Buongiorno Marta. Buongiorno, buongiorno. Chi sei? Sono prima di tutto un'ascoltatrice di... appunto, di... adesso mi sono emozionata. Sono un'ascoltatrice di Geronimo, ovviamente. E prima di Geroglifici. E domani lo sarò di Girandola. Bravissima, perché tu sai già, sei in anticipo sui tempi e sai già i titoli dei nostri prossimi podcast. Però abbiamo dimenticato di dire dove ci troviamo, quindi cominciamo dal dire dove ci troviamo in questo momento. Ci troviamo a Gattorna, una ridente dopo appunto le tappe precedenti di Felina. Era Gatta, esatto. Questo è un ridente fondovalle della Val Fontana Buona, un posto appunto molto fiorente in Liguria, brutto, c'è da dire, uno dei posti belli che attraversiamo. Sopra, sulle montagne, molto carino, si mangia bene, però qua... Anche qua si mangia bene. Va bene. Ah, perché ve l'ho portato io, per quello. A partire da questo, esatto. No, perché Marta ci ha portato della focaccia genovese, no? Marta ci ha portato la focaccia, anzi approfittiamone già che siamo qui per scusarci di nuovo con Andrea che ci aspettava con altra focaccia, ma il Giro d'Italia ci porta a fare delle svolte. Ma la focaccia lì di gira, cioè dove non c'è, dove c'è, si compensa, cornucopiette volanti di focaccia. Però in questo posto non ho ancora visto una focacceria, ho visto almeno 3 o 4 spacci di giocattoli, giusto? Esatto, perché la Val Fontana Buona era uno dei luoghi tipici dove già prima della guerra eccetera partivano i balunè, i ballonari, cioè i costruttori di giocattoli, che andavano poi a venderli e fare gli ambulanti in fiera sia in Italia ma soprattutto anche nel nord Europa. Infatti i miei bisnonni stavano ad Amburgo per parte dell'anno, poi tornavano qua ogni tanto quando non c'erano le fiere, il Luna Park, e assemblavano i giochi e poi andavano a vendere queste schifezzine varie, soprattutto girandole, di cui c'è ancora una fabbrica qui e vari altri spacci. E allora, la fabbrica di girandole oggi è chiusa perché quando passa il giro la fabbrica di girandole giustamente celebra. Perché sono tutti per strada con le girandole a sventolare. La città è piena di girandole, noi entriamo, anche tu hai una girandola che sventoli dalla schiena, però proviamo ad affacciarci a un negozio di giocattoli a questo punto. Sì, Basso Luigi Giocattoli, vieni anche tu nel fantastico mondo di... Andiamo, orsù! Permesso? Mi sa che è chiuso il negozio di giocattoli. È chiuso, cioè un pupazzetto di Piplup, mio Pokémon preferito. Però abbiamo parlato di giocattoli, cibo e tutto quanto. Sulla porta del negozio, che purtroppo è chiuso, c'è il volantino della festa della squadra di calcio dove suonerà il DJ set Stefano Caramella. che comunque con giocattoli e girandole... E dalle 19 c'è uno stand gastronomico con specialità focaccette al formaggio. Però primo giugno. Il primo giugno, allora... Primo giugno, c'è tempo. Ma poi qua, io sono venuto a un sacco di sagre in Val Fontana Buona. A Moconesi c'è una pista per il liscio incredibile. Gli amanti del liscio vengano a ballare a Moconesi. E ho visto che il primo giugno c'è DJ set di Stefano Caramella. E il 2 ci sono i Caravel, che sono la mia band di liscio preferita del... L'importante è essere filologici, quindi dare per step. E allora direi di concludere questa fallimentare visita. No, abbiamo la focaccia. Abbiamo incontrato che... Marta. Altro però facciamoci che almeno un selfie con la girandola più grande di Gattorna e poi ve lo mandiamo. È quella più grande che ho visto finora. No, quella più grande è là. Ah no, è là. E allora andiamo. Andiamo, c'è il monumento alla girandola. Al semaforo, perché ce n'è uno solo, sì. Dove c'è il sindaco di Voltaggio. Sì, esatto. Sì. Benasso Giuseppe. Giuseppe Benasso, buongiorno. Sì, buongiorno. Noi vi abbiamo portato alcuni alcune cose. Uno è il pieghevole che aveva scritto Vittorio Sgarbi 3 anni fa dopo una visita qui, qualche copia. Grazie mille. E poi la stessa signora che è citata lì per aver donato gli amaretti a lui, li dona adesso a voi. Ah però, ecco. Gentilissima. Grazie. Un po' di amaretti, certo, un po' di ristoro. La signora che si chiama? Giovanna Carrosio. Voltaggio quanti abitanti fa? Fa 656 abitanti. Sempre. C'è una pinacoteca di fama internazionale. È la seconda. Scusate. Suona il telefono del sindaco. Suonano magari, sempre i telefoni dei sindaci. Sì, dicevo, è la seconda pinacoteca del Piemonte. Com'è successo che c'è una pinacoteca così importante perché in un posto così piccolo e remoto? Un frate di Voltaggio nell'Ottocento, con l'aiuto della duchessa di Galliera, quella che ha costruito l'ospedale di Genova, ha raccolto più di 200 quadri, soprattutto di pittori del 600 genovese. Io ho una domanda invece sul nome del comune. Voltaggio ha a che fare con l'elettricità o c'è qualcosa? No, sempre, perché non si sbagliano. Voltaggio come quello dell'elettricità, e così capiscono tutti. No, sarebbe voltabium, nel senso voltato. Ci sono alcune interpretazioni, perché prima pare che fosse da un'altra parte, dove adesso proseguiremo, e poi che sia stato portato in questa zona. Quello di cui si vedono i ruderi, ecco, là sopra. Sì. La voce della moglie del sindaco, la first lady di Voltaggio. Invece volevo fare un'ultima domanda. Sì. Alla signora Giovanna, che ci ha portato questi splendidi amaretti, splendidi, buonissimi, ancora non lo so, lo credo, lo possiamo immaginare. Perché sono speciali, cosa hanno di particolare rispetto a tutti gli altri amaretti che vengono prodotti in zona? Beh, intanto sono ancora fatti a mano, noi li facciamo a mano, utilizziamo solo mandorle italiane ed è dal 1899. Quindi io sono la quarta generazione, un po' di tempo che li facciamo e con tanto amore. Possiamo farveli vedere? Possiamo farvi sentire il suono, sì, per il momento? Sì. Della. Ho letto che la pinacoteca si chiama dei Frati Cappuccini. Sì. Non so se lo sa, ma il Giro d'Italia qualche tappa fa è stato su una salita nelle Marche che si chiamava I Cappuccini, perché in cima... E aveva fatto selezione quella tappa, ricordo. Sì, sì. Perché lei sta seguendo il Giro d'Italia, comunque lei è un appassionato di ciclismo. Sì, ma appassionato sì, però diciamo non sono un intenditore, ce ne sono molti neanche che... Neanche noi, non si può. Nemmeno voi. Ah, va bene, sono in buona compagnia allora. Ma chi lo vince, sì, questo Giro d'Italia, secondo lei? È chi non ha il Covid. Perché altrimenti qui... Su questo pronostico chiaro, noi proseguiamo lungo la strada della corsa... Siamo a Isola del Cantone, luogo mitico per chi percorre la Serravalle, e qui è venuto a pedalare recentemente niente po' di meno che Michele Pelacci, mentre ci sono bandiere del Marocco a Isola del Cantone. Oh, è un bellissimo posto intanto, perché siamo fermati in una delle molte fontanelle rinominate la Fontanella di Coppi, no? Fermandoci alla fontanella ci ha messo a parlare con una signora che guardava la strada dal palazzo di fronte. E così ci siamo intrattenuti 5-6 minuti con questa simpatica signora a Isola del Cantone, non molti giorni fa, e è un ricordo che ho con gioia, così, che mi fa sorridere, insomma, mi piace ricordare questa cosa. Quindi venite a Isola del Cantone, luogo di fontanelle e di signore. Comunque teniamo sempre altissimo il tasso di sindaci nella nostra rubrica sul Giro d'Italia, sono molto contento. L'anno prossimo lo facciamo solo sui sindaci, questo podcast. Giro dei sindaci. Giro dei lo sindaci. Chiamiamo così? Bellissimo. Non lo so, anche se l'anno prossimo mi sa che vado con la famiglia Ackerman a farmi le vacanze. Però se no lo facciamo solo sui sindaci. E comunque grazie Michele, perché hai citato Fausto Coppi, se no arrivavamo a Tortona senza nemmeno una citazione. È forse in Italia forse più pieno di campioni legati al ciclismo questo, no? Credo che ci sia proprio una sanzione pecuniaria, sì, sì, se sì, arrivi a Tortona e non citi Fausto Coppi. Se andate giù nella sala stampa c'è quella, come si chiama, in inglese si chiama Pigeon Hall, che è bellissimo, in italiano non so come si chiami, dove mettono i piccionaia, quella, esatto, piccionaia dove mettono i comunicati della giuria. Non è ancora uscito quello disciplinare, perché aspettavano di vedere se menzionavamo Coppi o no, se no saremmo stati fuori dal cacciati giro via, probabilmente. Sì. Va sì, bene, sì. Invece possiamo rimanere ancora un pochino qui e sfruttiamo il tempo che ci rimane per passare a quello che sarà domani, la tappa numero 12 del Giro, se non sbaglio, ce la introduce un locale, un corridore, un infante del paese che non è nel paese perché non sta disputando questo Giro d'Italia, anzi è in ritiro in montagna in questo momento, però l'abbiamo sentito e ci siamo fatti mandare un piccolo contributo riguardo alla prima parte di tappa che si snoda tutta nelle terre di Matteo Sobrero. Diciamo che la partenza della tappa di domani, diciamo tutti i primi, diciamo all'incirca 50-60 km, sono tutte zone dove mi alleno quasi tutti i giorni. E allora si parte da Cherasco e poi si sale subito alla Morra. Alla Morra, in cima proprio dove si scollina, c'è diciamo il bar dove vado sempre a fare il giro bar, che si chiama Mangè, che è un mio amico. Se passate da lì vi fermate a prendere il caffè e poi da lì si entra un po' nella zona del Barolo e si diciamo che si fa tutta la parte più importante del Barolo. Si passa proprio la Morra, Barolo, Monforte e poi si va su, si va poi su in Alta Langa, poi si raggiunge poi casa mia, cioè Montelupo Albese, che lì se volete vi potete fermare per una degustazione in cantina dei miei più che volentieri e niente, poi cos'altro, posti da mangiare sicuramente passate proprio nel pieno dell'enogastronomia albese, ce ne sono tantissimi, forse troppi. Quindi domani ci fermiamo a fare una degustazione in cantina a casa Sobrero? Se ci invita. Ci invita. Lui non c'è, ma l'invito a fermarsi è valido per tutti. Io sono anche già stato e ho bevuto bene la volta precedente. Ah, per cui... perfetto. Abbiamo incontrato anche un nostro amico e collega di podcast che ci ha scambiato vino, no? Con cui abbiamo scambiato alcolici, insomma, sulla stampa. Abbiamo scambiato alcolici nella giornata di oggi. Domani, al di là dello scambiare alcolici, cosa guardiamo sulle strade del Giro d'Italia? Ci toccherà lavorare, purtroppo, perché dopo la prima parte mossa tra le Langhe, di cui ci parlava Sobrero, in cui si passano molte località con nome, diciamo, sostantivo più d'Alba, si va diciamo nella zona ovest di Torino, all'imbocco della Valsusa. Il finale è a Rivoli, ma prima a Davigliana si approccia la salita della Sacra di San Michele, il Colle Braida, famosa per Umberto Eco eccetera. Soprattutto è una salita non facile, perché in tutto sono 10 km al 6%, ma soprattutto gli ultimi 5 sono all'8 fisso, per cui è una salita vera, è una salita di seconda categoria che potrebbe creare problemi alle ruote più veloci, a chi non resiste, ma la fuga potrebbe qui come dire decidere il proprio destino, perché un fuggitivo qui che ha le gambe potrebbe veramente arrivare al traguardo. Lo scollinamento è a poco meno di 30 km dal traguardo di Rivoli. Dopo la discesa, insomma, non ci sono altre asperità se non il piccolo zampellotto di Reano. Potrebbe essere una tappa domani in cui arriva la fuga, in cui arriva un gruppetto ristretto di corridori, insomma molte interpretazioni possibili. Ah, dacci questo pronostico. Intanto hai notato come sono stato serio stavolta, professionista? Ma tu sei un professionista esemplare. Ho visto bene Oldani oggi, fatto quinto in una volata di gruppo e secondo me insomma, è un buon auspicio magari per la sua condizione in crescita. Stefano Oldani. Ma sì, l'avevo pronosticato per oggi, però vedo che lui si sta lanciando sempre più negli sprint di gruppo e sempre meno nelle fughe, quindi vedremo. Io, come ho detto in apertura, oggi sono un po' giù di morale per i motivi che sapete, quindi domani vorrei una vittoria di quelle che mi possano esaltare, e un nome che facilmente mi esalta in questo Giro d'Italia e che ha molte gambe in questo Giro d'Italia è Derek G. Ah, attenzione. Io sto notando che questo Giro d'Italia sta diventando un po' un giro di doppiette. Nel senso che in questo momento abbiamo due vittorie belghe, due vittorie italiane, due vittorie australiane, due vittorie danesi. Oggi non mi ricordo più chi ha vinto. Ackermann, non tedesco, è solo il primo. No, perché la pagina Wikipedia non è ancora aggiornata e stavo seguendo quella. Ma tu perché vai su Wikipedia a vedere chi vinceva? E dove devo andare? Ma vabbè. Devo ricordarmi la memoria, non mi ricordo manco che giorno siamo. È un ottimo promemoria. Insomma, quindi un altro tedesco domani? No, un altro, anzi non un altro, ma un'altra vittoria irlandese. Ah, quindi... Domani quindi... rivince Ben Healy. Vedremo, vedremo, un nome interessante, interessante per la tappa di domani. E allora intanto andiamo verso i saluti, non prima aver letto in tempo reale il tweet di Theo Gegenhardt, che dall'ospedale, credo, di Genova, da uno degli ospedali di Genova, dice arrivederci Giro d'Italia, insomma conferma che è devastato dal vedere il suo giro terminare in questo modo, e però ci dà appuntamento a una prossima volta, il che è una buona notizia. Lo aspettiamo ovviamente quanto prima sulle strade del Giro e del ciclismo in generale. Andiamo a concludere con un contributo oggi che abbiamo dalla nostra squadra Shimano, che ci accompagna, ci scorta, ci dà... Sì, non scorta noi, ma scorta il gruppo, esatto. Fortunatamente, perché ne ha più bisogno. Non è un contributo di oggi, è un contributo noi, frequentandoli tutti i giorni, registriamo sempre qualcosa e ce lo mettiamo lì. Ci tenevo però a farvelo sentire oggi, perché noi abbiamo parlato spesso della squadra dell'assistenza tecnica neutrale di Shimano, ma forse non abbiamo mai spiegato esattamente cosa fa e perché è in corsa l'assistenza tecnica neutrale, per cui questo è un contributo registrato qualche giorno fa con Pietro Algeri, mentre eravamo in viaggio in ammiraglia con lui, e insomma sono un po' di chiacchiere montate insieme per capire esattamente qual è il loro lavoro, che poi torneremo a raccontarvi nello specifico del lavoro e nello specifico delle persone che ci accompagnano nei prossimi giorni. Con questo vi salutiamo, sperando di non dover più parlare di incidenti nelle prossime tappe, e a domani. Ciao, speriamo di trovare una cena, perché c'è sempre quel problema lì, per cui ci mettiamo in viaggio. Ciao. Può permettersi di andare più avanti, noi non dobbiamo allontanarci troppo, perlomeno fino a 2-3 km dall'arrivo, perché se ci fosse una caduta, sai, a volte sul finale ci può essere una caduta e il gruppo si rompe, le ammiraglie restano ad assistere i corridori caduti, e quindi noi dobbiamo aspettare, infilarci dentro dietro al primo gruppo, no? Al primo spazio che c'è, perché non ci sarebbe più nessuno a fare assistenza, se no la nostra funzione qui sembra per tutto il giorno quasi inutile. Dici, capita anche da 2-3 giorni senza toccare le ruote, niente, poi magari in un minuto, due minuti, e soprattutto nei momenti più delicati e più importanti, perché vedi che noi siamo lì quando non c'è le ammiraglie qua, e soprattutto sul finale, però rischiare di perdere il giro perché non c'è nessuno che ti fa assistenza, insomma è successo a Cade Evans a una vuelta, che ha forato su una salita sulla Sierra Nevada, non so se il cambio ruote, non aveva le ruote, ha perso due minuti e da lì ha perso la vuelta per 40-50 secondi. Sì, sì. Ma e a voi è mai successo di invece di salvare il giro di un corridore? Non lo so. Di salvarlo? Totalmente no, però siamo intervenuti, anzi quando si arriva soprattutto la terza settimana cerchiamo sempre di mettere almeno uno o due o a volte tre bici a misura dei primi tre, no? Anche se adesso con la sella che si può alzare e abbassare il problema è minore, ma prima almeno i primi, perché se dovesse forare o cadere la maglia rosa, sai, c'è lì la televisione sopra, e così noi il nostro obiettivo è mandarlo via più velocemente possibile, non so, farlo ripartire il più possibile. Ci attrezziamo perlomeno, dopo magari quasi sempre non succedeva niente, successe cose minori. Io ho cambiato una bici, ero in macchina, un povero Dario, l'ultimo cronometro che la cronometro di Milano, sì. C'è un corridore, non mi ricordo, della Je Desert, di un'equipe francese, che gli si sono proprio rotte le appendici della bici, c'eravamo solo noi, sì, gli abbiamo cambiato la bici. Sì, anche, cioè, non era un uomo di classifica, però sai, non poteva assolutamente finire la tappa, quindi non avrebbe finito il Giro d'Italia. Cioè, come quello su la cronoscalata Bassano-Montegrappa, che è andato fuori tempo massimo perché da dove, insomma, non ricordo più, cioè dove c'era la deviazione, praticamente ha rotto la bici, anche quello lì è andato a piedi, già era uno fuori classifica, a quindi piedi è andato a piedi su, è arrivato fuori tempo massimo. So che noi non era colpa nostra, perché noi forse non l'avevamo seguito noi e lo seguiva la squadra, non mi ricordo più, era un problema. Vabbè, un po' come Froome quando è andato a piedi sul Mont Ventoux, esatto. Ma diciamo che quel discorso lì, adesso io non voglio prendere meriti così, però da quando ho cominciato a fare questo lavoro qui, io il discorso dei pedali, perché il fatto più grave quel giorno lì di Froome è stato che la bici che gli è andato non aveva i pedali, però noi avevamo già, ti ricordi, 3 o 4 paia di, sì, pedali, sì, su, perlomeno. Noi siamo sempre stati molto, molto, molto organizzati. Cioè, come gruppo proprio di servizio neutrale, abbiamo sempre, diciamo, puntato al fatto che non siamo il cambio ruote, come ci chiamavano tanto una volta, no? È molto gretto come definizione, anche perché noi, cioè, abbiamo barretta, abbiamo gel, diamo acqua, diamo un'assistenza come una ammiraglia, anche perché siamo una ammiraglia a tutti gli effetti, perché quando non ci sono le macchine delle squadre, siamo noi che dobbiamo essere. Quindi siamo sempre stati organizzati comunque ad avere tutto in macchina, tutto il necessario per dare la giusta assistenza nel minor tempo possibile. E è molto difficile al giorno d'oggi il discorso, perché ovviamente ci sono gruppi diversi, rapporti diversi, un sacco di pedali diversi, comunque ci sono tantissimi corridori, con ognuno ha una bici diversa, con una misura diversa, quindi sai, di capire che è anche abbastanza difficile essere efficienti magari come l'ammiraglia della propria squadra. Però abbiamo sempre fatto un ottimo lavoro, no? Sì, sì, ma infatti è proprio per questo che io, da quando ho smesso a fare il direttore sportivo, Giovanni Mazzola mi ha chiamato in Vittoria per questo ruolo. Io da quel giorno lì ho voluto, a poco, perché non è stato facile, non tutti ho voluto quella vettura cambio ruote trasformarla in vettura neutra, proprio per come ha detto lui, tutta l'assistenza che serve. E prima, per dirti una, non so se hai fatto caso stamattina, io sono andato a prendere il ghiaccio in cucina, tutti e tre i frigo delle vetture sono le borracce col ghiaccio sopra, e quindi il frigorifero è lo stesso come un'ammiraglia. Una volta invece tenevano le bottigliette lì sul sedile e gli davano le bottigliette.